Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. Invece a volte mi viene quasi il dubbio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che ci siano queste mezze stagioni. Ne parlavo poco fa col colonnello Giuliacci, che poi incontreremo strada facendo, perché mi è venuto questo mal di gola, raffreddore, non so bene perché, c'è il sole fuori, sono le mezze stagioni, sai, con le temperature che sembra che ancora faccia caldo, ma poi dopo uno prende un colpo d'aria. E quindi forse, chi lo sa, ci rimarrà questo dubbio. Intanto noi andiamo avanti così. E vi ricordo sempre che questo è l'appuntamento per voi, per esprimere con estrema libertà le vostre opinioni sui fatti della settimana. Quindi ritorniamo insieme man mano sulle notizie, su quello che vi ha colpito di più. Il numero verde, ve lo ricordo dall'inizio, è 800 24 00 24. Sapete che, come sempre, ho un opinionista estemporaneo, come dico io, che scelgo per commentare dal suo punto di vista i fatti della settimana. Ho avuto giornalisti, avvocati, donne e uomini naturalmente, registi, giuristi, scrittori, antropologi, psicologi. Ecco, è interessante ogni volta vedere, sentire, anzi, un punto di vista diverso. E questa volta, signori e signori, ho come ospite... Alberto Salza. Buongiorno. Buongiorno Alberto. Alberto che è antropologo definito sulla quarta di copertina del tuo libro, irriverente, quindi sarà irriverente anche qui in questo appuntamento? Ma possiamo tentare, eh? I tempi non sono proprio maturi per essere troppo irriverenti, ma comunque... ci proviamo. Perché un antropologo si fa problemi di questo tipo? No, assolutamente, ho sempre una via di fuga io, perlomeno posso scappare in Africa. All'estero, infatti, visto che ci hai vissuto per tanti anni, perché Alberto Salza è proprio in qualità di viaggiatore, appunto, come diceva, un grande narratore di storie, ha vissuto pericolosamente a contatto con la povertà estrema davvero in vari paesi del mondo, nelle megalopoli, dalle periferie italiane, le megalopoli di Africa, di Asia, e adesso ci racconterà brevemente, perché sapete che il succo della trasmissione naturalmente sono i fatti della settimana in corso che si sta chiudendo, ma il titolo del libro che ha pubblicato Alberto Salza per Sperling e Kupfer è Niente, punto, come si vive quando manca tutto, antropologia della povertà estrema. Beh, una cosa curiosa è che voi avete tutti citato sempre gli slums o le grandi megalopoli come centri di povertà. In realtà la miseria più terribile sia poi nelle campagne. Sono partito da lì, io lavoravo con i pastori nomadi e loro negavano l'esistenza stessa della povertà, dicevano che non erano neanche loro i poveri, che non hanno nemmeno una parola per dirlo. E poi ho scoperto che c'è un'esclusione terrificante di lì risalendo, questi rami secchi delle varie popolazioni, sono poi arrivato anche alle grandi città, per carità. Il succo è che la deprivazione progressiva di elementi importantissimi che vanno dal cibo all'educazione conduce a una condizione umana assolutamente aliena e che forse porterà a una nuova specie umana differente dalla nostra, magari anche migliore, ma certamente differente. Ma questa è una buona speranza, mi sembra, poi nel senso della nuova specie magari migliore, poi non so che travolgimenti dovremmo essere soggetti per questo cambiamento. Però ti volevo chiedere, Alberto Salza, visto che è una ricerca di questa settimana, che è stata pubblicata questa settimana ed è legata all'argomento del tuo libro, allora la cito, si parla di nuova povertà alimentare e è stata fatta dalla Fondazione per la Sussidiarietà, i curatori sono il prorettore dell'Università Cattolica Luigi Campiglio e Giancarlo Rovati, ordinario di sociologia alla Cattolica, dal titolo Povertà alimentare in Italia, no? Questo studio, e per la prima volta è stato calcolato nel nostro paese la soglia sotto la quale si è in difficoltà nel fare la spesa in Italia e riguarda il 5,3% delle famiglie italiane, quindi 3,5 milioni di italiani. In realtà dicono non è che queste persone non mangiano, non è la fame che tu appunto hai potuto incontrare tante volte nella tua vita nei vari paesi, ma quella soglia di povertà per cui una famiglia non riesce ad avere un'alimentazione adeguata, equilibrata, soprattutto per i più piccoli, quindi poi ci sono delle implicazioni anche fisiche, intellettuali. Sì, in realtà non è proprio una questione di soldi, perché si parla sempre del famoso dollaro al giorno, $2 al giorno equivalenti per definire una povertà. Io vivo con persone che se li sognano $2 al giorno, ma è la qualità alimentare. Ad esempio, infatti, in Perù, piuttosto che in Messico, in Perù le patate, in Messico il mais, di tantissime diverse qualità, fornivano tutti gli elementi necessari per campare. Adesso con la globalizzazione, l'arrivo di materie che costano anche meno, i famosi OGM, su cui non c'è niente da dire da un punto di vista strettamente alimentare, ma certamente impoveriscono la biodiversità del cibo, e questo è un elemento che depriva il cervello di elementi importantissimi, i chetoni per esempio, che sono degli elementi chimici del cervello che si consumano quando si mangia male, quando si mangia troppo poco, e la denutrizione passa alla seconda generazione. Quindi si potrebbe avere un istupidimento delle varie popolazioni alimentate male, non diciamo sottoalimentate. Ecco, ma che anche in male. Italia non ne avremo bisogno di un ulteriore istupidimento. No, comunque, direi di no. Cioè. Allora, intanto, quindi abbiamo brevemente raccontato un po' di cosa si è occupato in questo suo ultimo libro Alberto Salza, antropologo, e adesso man mano andremo sui fatti della settimana, anche grazie ai vostri interventi, alle vostre telefonate. Vi ricordo il numero è verde, quindi gratuito, 800 24 00 24. Ma come sempre concediamoci anche un punto di vista extraterrestre. Riflessioni da Marte. A volte da quassù, per quanto bizzarra e permanga la Terra, si intravedono anche delle buone notizie, qualche volta bisogna dirlo. Per esempio, è aumentata l'aspettativa di vita di cani e gatti. Secondo uno studio americano, infatti, i quattro zampe arriverebbero sempre più oltre 15 anni, eh? Qualcuno arriva anche oltre i 20, e si apprende altresì che metà dei bimbi nati oggi, anche in Italia, camperà sino a 100 anni. Viene da pensare, però, chi li manterrà tutti questi bipedi e quadrupedi così longevi? Viene pure da pensare, almeno qui da Marte, com'è che la Terra è sempre più sfruttata, intossicata, i suoi abitanti a varie zampe, nonostante ciò, vivono sempre più a lungo. Questo è un bel mistero, almeno nei paesi più sviluppati. E soprattutto, se consumano così velocemente le risorse disponibili, tanto che per l'anno corrente 2009, ne abbiamo parlato l'altra volta, la Terra è già in riserva, no? A ottobre 2009, di cosa vivranno negli anni a venire? Non penseranno forse di campare a croccantini aromatizzati, o peggio di venire a rompere le scatole qui su Marte? No. Ma insomma, proseguiamo con le buone notizie. Dove la politica divide e rende acerrimi avversari, la prostata unisce. Sembra incredibile, ma gli esseri umani sono fatti così. Antonio Di Pietro, reduce da un intervento al tallone d'Achille maschile, appunto la prostata, si compenetra in una paritetica situazione che ha già vissuto Berlusconi, e in virtù di questa esperienza comune e accomunante, direi, gli esprime tutta la sua solidarietà. Mi sembra fosse dalle pagine del Corriere. Insomma, meglio sentire, ecco, bisogna dire, un moto unificante per via della prostata piuttosto che per nulla affatto. E per chiudere con le buone notizie, l'Iran, con la pressione diplomatica soprattutto bamiana, ha accettato di far ispezionare prossimamente i propri siti nucleari agli ispettori internazionali. Ma la cosa giusta, in realtà, su questo argomento, chi l'ha detta? È il Baradei. Il Baradei è il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E cosa ha detto? Ha detto: in tutto il mondo, complessivamente, sono 9 i paesi che possiedono armi nucleari. E sono 9 di troppo. Bene, adesso ritornati coi piedi sulla terra, direi di cominciare a sentire qualche ascoltatore. Il numero verde è 800 24 00 24. Sentirei Rosario da Siracusa. Ecco, subito con la Sicilia, quindi. Rosario. Dottoressa Giordano, buongiorno. Buongiorno, Rosario. Puoi anche chiamarmi Roberto, sono dottoressa, vuoi chiamarmi Roberta tranquilla? Se ti va, se no ci diamo del lei, come preferisci. Dunque, io vorrei fare innanzitutto una piccola premessa, perché considero lei giornalista di grande vaglia, veramente, persona, io la seguo e quindi so la sua onestà intellettuale a che livello opera. Sei gentilissimo, questa... Rosario, ci provo, ecco, ci provo, non è detto che sia non un obiettivo raggiunto. Non è per piaggeria che dico questo, ma proprio perché, ripeto, la seguo e so come la pensa lei. E vorrei, appunto, questa premessa la faccio proprio in funzione al fatto che dopo il mio intervento desidererei avere il suo il suo pensiero. Il mio intervento è brevissimo. Sì. Oggi si manifesta per quanto concerne la libertà di stampa. Io penso a Roma, che, sì, c'è la manifestazione alle 15:30. Io penso che voi giornalisti dovreste manifestare per la vostra libertà. E l'esempio che faccio è la prova provata che una manifestazione fasulla, che è in buona sostanza per dare fumo negli occhi e per incidere ancora di più sul pensiero dei giornalisti che non sono allineati con la sinistra. Dico questo perché un suo collega, un onesto collega, che chiude una trasmissione televisiva Uno Mattino, avendo come ospite il presidente Berlusconi, chiude dicendo grazie presidente per l'intervista, lei venga perché quando vuole, perché questa è casa sua. Rivolto a chi? È presidente del Consiglio? Al presidente del Consiglio. Apri di cielo l'inferno perfetto, servo del padrone, chi più ne aveva ne metteva. Lo stesso giornalista però, perché la gente di memoria corta e soprattutto chi opera nella bugia e nella falsità, aveva detto le stesse cose all'onorevole Bessani, proprio concludendo l'intervista dicendo grazie onorevole, questa per l'intervista, questa è casa sua. Allora, chi non è allineato con la sinistra diventa un servo dei padroni, chi invece fa la stessa dicitura a uno di sinistra può fare anche grande carriera nel mondo della comunicazione e della stampa. Grazie dottoressa, e ringrazio quanti in questo momento mi hanno ascoltato, perché penso che attraverso questo semplice intervento, che non pretende niente da un punto di vista personale, ma che pretende tantissimo da un punto di vista di libertà individuale, ancor di più la libertà dei giornalisti, perché questa sì che è una cosa importantissima. Se sono liberi i giornalisti di non essere schiavi di nessuno, siamo liberi sicuramente tutta la popolazione italiana. Grazie a te Rosario. Intanto salutaci la Sicilia, e poi volevo dire, intanto per quanto riguarda, allora, se tu ricordi ai memori di questo che fu detto anche all'onorevole Bersani, allora forse io direi che quando si è si lavora per il servizio pubblico, allora forse non bisogna dire a nessuno questa è casa sua, nel senso che la casa di tutti gli italiani, però non lo deve essere di una parte politica o dell'altra. Ecco, quindi io personalmente eviterei di dirlo sia a uno che all'altro. Per quanto riguarda la libertà dei giornalisti, lo hai detto tu stesso Rosario, che è così importante la libertà dei giornalisti e la libertà di informazione, perché permette poi di far passare le notizie senza filtri e di dare modo anche alle persone di farsi un loro pensiero critico sulle cose. L'hai detto tu stesso, quindi io non aggiungerei, se permetti Rosario, nient'altro. Poi oggi mi pare una manifestazione, quella di Roma, legittima, che forse vuole ricordare, in un momento in cui magari si fanno un po' troppe polemiche su programmi TV e giornali eccetera, insomma, che i giornalisti fanno il loro mestiere, e poi chi dissente può farlo altrettanto liberamente, ma insomma senza impedimenti o imposizioni. Numero verde 800 24 00 24. Poi chiederei anche Alberto Salza se ha un'opinione su tutto ciò, ma se mi permettete, proprio in un minuto, se il fiato me lo permette con un po' di raffreddore, vi racconterei in estrema sintesi alcune delle notizie della settimana, e poi voi pensate a quelle che vi interessano di più, anche che non ho citato ovviamente, perché proprio sono solo alcune. Ovviamente le tragedie che ci sono state questa settimana, incredibile, da un punto di vista di catastrofe naturale e non solo, perché quella di Messina, molti dicono, mi pare anche piuttosto logico, non si può chiamare una calamità, perché è una tragedia annunciata. I dissesti idrogeologici in Italia riguardano, la ricerca di Legambiente, 7 comuni su 10, la speculazione, l'incuria, ecco, quindi per ora sono 21 i morti accertati a Messina, però purtroppo il bilancio è ancora provvisorio, poi ci sono i sfollati, i feriti. Poi il sisma a Sumatra in Indonesia, con 4.000 persone sotto le macerie, i morti che salgono sempre più, 1.100 per ora, lo tsunami nelle isole Samoa, quindi veramente una settimana devastante da questo punto di vista. Sempre rimanendo sulla pagina Estera, in Iran c'è stata questa svolta, almeno nel negoziato, soprattutto tra Stati Uniti e Iran, sembra che Teheran sia disponibile a far controllare i propri siti nucleari dagli ispettori dell'AIA, ispettori internazionali. In Germania ci sono state le elezioni, ha trionfato il centrodestra, quindi la Merkel. In Italia la vicenda anno zero con il caso Patrizia D'Addario, il boom di ascolti per Santoro, le polemiche furiose che ci sono state, la manifestazione di Roma che ci ricordava poco fa Rosario, le nomine in Rai, Bianca Berlinguer che è la nuova direttrice del TG3. Sapete che poi anche in America, a proposito di scandali, David Letterman, che conduce questa famosissima trasmissione sulla TV americana, ha rivelato di essere stato ricattato per delle storie extraconiugali che ha avuto con le sue collaboratrici. Poi, tra le moltissime notizie, tra poco aggiorniamo anche chi sta viaggiando, c'è Berlusconi che per il suo 73° compleanno si è recato di nuovo in Abruzzo per consegnare altre case, il sì allo scudo fiscale, anche qui con tutte le polemiche che ci sono state, ma che è passato poi anche grazie all'assenza dell'opposizione alla Camera. Fini che ha detto: non utilizzerò il lodo Alfano per quella querela che mi fece l'ex PM Woodcock. Allora Woodcock ha apprezzato e ha ritirato la querela. La sfida per la leadership nel PD, il botte risposta tra Brunetta e i magistrati, le mutilazioni genitali che persistono e perseverano anche in Italia su 1000 bambini e adolescenti immigrati, donne che l'hanno già subito, 35.000 donne almeno in Italia che l'hanno subito. E poi a livello di dati dell'OMS internazionale ci sono 140 milioni di bambine e ragazze nel mondo che hanno subito queste mutilazioni. La RU486, la pillola abortiva, che ha avuto l'ok finale dall'Agenzia del Farmaco, anche se adesso si dovrà avere poi il via libera definitivo. Per quanto riguarda il cinema, sarà Baria di Giuseppe Tornatore a essere candidato tra i film, il film italiano, insomma, per gli Oscar, e le Olimpiadi che hanno visto assegnare a Rio de Janeiro l'edizione 2016. Eccoci insieme, Roberta Giordano con voi, e in collegamento l'antropologo Alberto Salza, che ha pubblicato il libro Niente, come si vive quando manca tutto, antropologia della povertà estrema. Prima di sentire Manlio dalla provincia di Treviso, sempre al numero verde 800 24 0024, ci dirà qual è la notizia sulla quale vuole tornare a fare delle riflessioni. Salza, tra le notizie che ho cercato di elencare finora, le cose dette, anche l'intervento dell'ascoltatore, ti viene in mente qualcosa su cui vuoi... Sì, una cosa immediata è che lavorando per i diritti umani tra i pastori nomadi ho scoperto che la libertà è un dovere, non è un diritto, quindi bisognerebbe darsi molto più da fare per mantenerla, per ottenerla e per vedere come in moltissima parte del mondo la libertà assolutamente, soprattutto quella di stampa, è un giochino di parole, ma noi dovremmo essere abbastanza contenti di come va, fermo restando che nessuno deve intimidire chi che sia, né giornalisti, né giornali e cose di questo genere. Per quanto riguarda le catastrofi, già Léon Bloy nel 1907 diceva che sta per suonare l'ora in cui le catastrofi si toccheranno, in cui non ci saranno più che catastrofi. Il sistema complesso del nostro mondo è un costruttore di catastrofi. Per l'Iran, bellissima la battuta dei 9 di troppo, l'importante è che non diventino 10. E per essere molto rapido, il problema escort è comico perché i Tuareg mi hanno insegnato che le parole contano, hanno 20 parole per dire acqua. Noi per dire prostituta dobbiamo inventarci escort, che invece è una degnissima professione. Per le mutilazioni se lo si fa come scelta, io ritengo. Sì, lo si fa come scelta, e questo è imbarazzante. Perché effettivamente io sono stato accompagnato da una escort in Sudafrica perché dovevo andare a cena col ministro dell'educazione e della cultura e non avevo una compagna con me, e normalmente nelle cene eleganti, l'unica a cui ho partecipato in vita mia, bisogna comunque avere una compagna. Allora, ma non poteva essere una hostess, un escort? Si chiamano così. Non sei stato l'utilizzatore finale, poi se lo posso chiedere? No, assolutamente, ho mangiato quel che c'era da mangiare e sono tornato poi quello al mio caro albergo. Questo proprio per la ipocrisia di fondo che si riscontra in un mondo molto complicato. Nei mondi più semplici, chiamiamoli così, le cose sono quelle cose lì, non sono un'altra cosa, ed è difficile ingannarsi ed ingannare. Cioè non ci si gira intorno, capito? No, il deserto non perdona nessuno, la savana quasi quasi ancor meno, per non parlare poi delle situazioni più drammatiche delle realtà urbane. Questo è un dato di fatto, bisogna fare più attenzione anche a livello internazionale. Per esempio, la settimana scorsa c'è stata una fortissima alluvione in Burkina Faso che è uno dei paesi poverissimi, ma questo non ci riguarda. E in realtà invece il clima è mondiale, quindi dovrebbe riguardarci sempre una notizia catastrofica. Ci riguarda e ritengo altrettanto catastrofica, non solo perché le catastrofi avvengono un po' a catena ed è la Terra tutto un sistema comunque collegato, quindi certo. Non è appunto anche il fatto che sempre di questa settimana, adesso vediamo se la ritrovo, me l'ero appuntata, ecco, la denuncia di Sole Terre, che è una ONG, un'organizzazione non governativa, parla della Costa d'Avorio, Africa, dove le bambine si prostituiscono a 46 centesimi l'ora per l'estrema povertà. Anche queste cose dovrebbero riguardarci, però sono notizie di cui non si parla. Io mi spulcio fra le varie cose durante la settimana un po' tutte le notizie che trovo dalle agenzie eccetera, e ogni tanto vorrei parlare anche di queste cose. Sì, in moltissime popolazioni africane la parola prostituta non era mai esistita prima della colonizzazione, per cui c'è effettivamente una deriva di comportamento a livello poi le bambine insomma mondo. Ancora sì, peggio certo. Alberto, in Sudafrica è anche peggio perché le usano per guarire l'AIDS e devono diventare una vergine per guarire. Sì, delle cose raccapriccianti, ancora non ci, io almeno non mi capacito che ancora nel mondo di oggi queste cose siano possibili. Comunque, torniamo alle telefonate delle ascoltatrici e degli ascoltatori, 800 24 00 24, che sono molto pazienti. Ringrazio Manlio, poi c'è Salvatore, c'è Lorenzo. Manlio, dalla provincia di Treviso. Sì, eccomi qua, mi sentite? Sì, perfettamente. Intanto, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Manlio. Siccome è la prima volta che intervengo così dal vivo, le faccio complimenti per la trasmissione, che la trovo bella, piacevole, educata e soprattutto di approfondimento, insomma. Ecco. Grazie, insomma, ecco. Un bel complimento. Di cosa volevi parlare, quindi? Io volevo intervenire un po' su quello che è, diciamo, la cosa della settimana, no? Questo problema dell'informazione e così via, no? Cioè, volevo dire un po' il mio parere, certo. Che secondo me c'è un'invasione nel privato che sta andando oltre a quello che il cittadino effettivamente gli interessa, no? Per cui avere tutta questa serie di informazioni continue, TG e continuamente, cioè è solo un modo di distrarre il cittadino poi alla fine in quello che deve fare nella sua vita, lavorare, la sua famiglia e tutto il resto, insomma, no? Ma deve avere anche una visione complessiva di quello che gli succede intorno e di come la politica lo governa? Oppure no, secondo te? No, secondo me sì, però in senso di approfondimento, no? Senza dover inculcare una situazione, ma cercare di vedere in queste trasmissioni o altre cose, cioè un senso educato della cosa, di approfondimento, senza dover esagerare continuamente e portare avanti con titoloni, dico magari La Stampa, cose di questo, cose che poi alla fine magari tante volte ce le ritroviamo che non sono nemmeno vere, montate ad arte da una parte e dall'altra, per cui è un modo anche di disorientare il cittadino che invece ha ben altri problemi a pensare, insomma, ecco. Ti ringrazio Manlio, quindi abbiamo sentito il parere sulla libertà di informazione, su come l'informazione faccia informazione, per l'appunto, scusate il bisticcio di parole, sia da Rosario che da Manlio. Sentiamo di cosa invece vuole parlare Carmine da Napoli. Carmine. Pronto, buongiorno. Buongiorno a te. Prima di intervenire vorrei fare un saluto alle vostre centraliniste che ci hanno una gentilezza che è poco comune. Scusa, Carmine, ne approfitto subito per la bravissima, appunto, Valeria Coffaro, che io la chiamo la Dea Calì perché veramente piglia telefonate a destra, manca e non so come faccia tutto da sola. E alla parte tecnica un'altra Valeria, sono accompagnata dalle Valerie oggi, Valeria Bernardi, che ci seguirà ovviamente fino alle 15. E quindi Carmine, fatti i complimenti. Sì, vorrei, se è possibile, due piccole cose. Uno, sì, per lo scudo fiscale. Sì. Esatto? Sì. Io ho gioito per la sconfitta della sinistra e per Di Pietro che sta cacciando fumo da tutte le parti, che poi sono stato loro a far approvare questo, non lo so, secondo me loro lo pensavano che era fatta bene, perciò non hanno partecipato, fanno finta di fare mafioso e via di seguito, secondo diciamo me, sì, anche che è passato per quei solo per passato, 20 per loro, 20 per voti, che se ci fosse stata tutta la posizione presente, sì, non si sarebbe passato, presentati i 26 del PD e via di seguito, sarebbe caduto. Ciò vuol dire che quella legge che fa il governo Berlusconi vanno fatte bene, siccome li fa Berlusconi per loro non va bene, anche se è bene non va bene, allora quei 26 hanno dato adito a questo, primo. Quindi, secondo, se me lo consenti di dire molto molto breve, sì, mi auguro che Franceschini segua un pochettino quello che ha fatto Veltroni, una volta cambiato, che Berlusconi disse non so quando sarà il 17esimo, 18esimo, 19esimo, farà quello che ha fatto egregiamente Veltroni, abbandonerà completamente, o si darà all'orto o si darà ai nipoti, non lo so se c'è i nipoti o meno, e abbandonerà completamente la politica perché non è competenza sua. Carmine, chi preferisci quindi tra Franceschini, Bersani e Ignazio Marino? Ah, Marino, senz'altro, però tra i tre mali è il meno male. Bersani sarà forse a livello di Franceschini e Veltroni. Siamo là. Cioè, il Marino, che essendo un chirurgo, un medico, un professionista, dovrebbe avere qualche cosa di sensato, perché si scagliano solo contro Berlusconi, fanno la guerra a Berlusconi. Io non sono berlusconiano, non sono berlusconiano. Gli voglio dire che io ho avuto dal governo Berlusconi, essendo un pensionato, ho avuto tante cose. Carmine, che è successo? È caduta la linea. Mi spiace, perché era chiaro il suo pensiero e ha avuto tante cose. Mi sembra quindi una persona soddisfatta e fortunata. Salvatore da Bari. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Grazie a te, Salvatore, di aver chiamato. Non sono d'accordo con Manlio per quanto riguarda il discorso dell'informazione. L'informazione dovrebbe essere ancora più incisiva e ancora più libera, a cominciare dai giornalisti, che non sono liberi dai propri direttori. Questo lo dico per esperienza quasi diretta. Perché sei giornalista, Salvatore, o conosci qualche giornalista personalmente? Entrambe le cose. Quindi ci sono dei direttori che a volte si mettono di traverso rispetto ai loro collaboratori, che cercano di fare liberamente la loro professione. A volte ci sono gli editori, quindi, a volte i direttori, a volte gli editori, insomma. Sì, io dico a partire dal primo passo, dal direttore, poi editore e così via. Quindi manifestazioni come oggi, che ce ne siano, che siano efficaci, che soprattutto diano qualche risultato. Poi liberi di parteciparvi o meno, di pensarle in un modo o nell'altro, per carità. La libertà in senso popolato e generale. Per quanto riguarda il discorso, invece, volevo dire qualcosa sullo scudo fiscale. Certo. Mi piacerebbe sempre, quando ci sono queste iniziative, questi decreti importanti che riguardano tutti, che venissero fuori anche i nomi degli assenti, cioè che noi elettori verremmo a conoscenza di chi non ha votato, di chi non si è presentato, non la corrente, il partito, proprio i nomi. Ma credo, Salvatore, perché... che la ricerca sia già partita e forse qualcuno l'ha anche pubblicata, non mi ricordo se Corriere Online o Repubblica Online. Che sia una prassi, mi conceda, che sia una prassi, perché a volte per me lo scudo fiscale può avere un'importanza, per me singolo cittadino, può avere una valenza X, poi un'altra legge può averne una più o meno importante. Ecco, sì. Sapere se per caso il mio rappresentante di regione, provincia, cioè il mio riferimento politico, sì, c'era o non c'era, per regolarmi di conseguenza. Non sarebbe male, ecco, dare anche un'informazione di questo genere, visto che poi li andremo a votare alle evoluzioni successive. Dico, mi sembra piuttosto legittima la tua richiesta, Salvatore, non credo che sia una caccia alle streghe, ma di chi si prende certe responsabilità, incarichi di rappresentanza e così via, magari esprime una certa politica e visione su un certo argomento e poi si comporta in modo incongruo e incoerente. Grazie, Salvatore. Lorenzo da Milano. Pronto? Eccoci, Lorenzo. Oh, ciao, ti do del tu perché... No, volentieri, io chiedo sempre se è possibile darci del tu. Non do del tu quasi a nessuno, però visto che... io lo prezzo. Ti sento molto vicino dal punto di vista, quindi grazie, sono Lorenzo. Contento. Niente, dico la verità, ho cercato di telefonare tutta settimana a Cruciani per poter parlare in trasmissione, visto che magari è più specifico all'argomento, però non ce l'ho fatta, ho detto... sabato chiamo. Ripieghiamo su Roberto Giordano. No, non è quello, è perché è più specifico da Cruciani. Sto scherzando, naturalmente, poi è quotidiano. Ecco, il discorso è questo. Sì. Per quanto riguarda la notizia di Berlusconi e il programma di Anno Zero, sì, io l'altra sera ho guardato Anno Zero e poi ho guardato Bruno Vespa, perché ho detto voglio farmi del male fino alla fine, e ho visto che in tutta questa vicenda si parla di... Si puntava molto sul fatto di dire lui lo sapeva che era una escort, che era una prostituta, lui non lo sapeva, lui chissà perché, chissà per come. Lui, ma Berlusconi. Lui non... Sì, Berlusconi lo sapeva, lui non lo sapeva. E mentre guardavo dicevo, ma qua veramente non so dove stiamo andando, cioè nel senso che io mi immagino questa persona di 73 anni che con famiglia potrebbe avere tutto, ha una famiglia, figli, nipoti, che tanta gente non ha anche. E questa persona che è a capo dello Stato, che è a capo del governo, che ha mille impegni, cioè alla sera non trova nient'altro di meglio da fare che portare 10, 15, 18, ho sentito anche, persone a far vedere un filmino del proprio comizio e poi fare quello che... cioè una pochezza, una tristezza. A me non interessa se lui ha colpe, se non ha colpe, se penalmente, se non penalmente, se governa fino a quando ha 1500 anni. Però non c'è nessuno che dica: caspita, ma fa veramente pena questa cosa. Ma perché non c'è nessuno, neanche una donna, che dica che fa pena questa cosa, vedere una persona di 73 anni conciata in quel modo, che... E sono tutti lì a cercare di difenderlo, anche Vespa l'altra sera, ma forse lui non lo sapeva. Ma chi se ne frega se non lo sapeva? Ma dove vive? Ma dove vive? E finisco. Ieri sera poi ho visto la Palombelli sulla 7, che anche lei diceva che no, io non giudico. Ma come tu non giudichi? Ma come puoi non giudicare? E mi sembrava di vedere ancora Guzzanti, il figlio di Guzzanti, che faceva la parodia del marito, e diceva: Berlusconi, ricorditi degli amici, non so se ti ricordi. Di Rutelli. Sì, Lorenzo, mi fai venire in mente, no, in realtà commenti su questo fatto anche da parte di donne, e magari in una certa direzione ce ne sono stati anche, per esempio, donne in qualche modo orientate verso centrodestra, come Lorella Zanardo di Fare Futuro, la fondazione di Fini. Ce ne sono stati. Comunque ti ringrazio, perché mi fai venire in mente invece un editoriale di Curzio Maltese su Repubblica questa settimana. Poi ne leggerò proprio uno stralcio, visto che hai espresso questa idea, questo tuo commento, e chiederò anche a Alberto Salza poi cosa ne pensa. Rieccoci, Roberta Giordano sempre con voi sino alle 15, così avete modo, tempo e voglia, spero, di esprimere le vostre riflessioni sui fatti della settimana. 800 24 00 24, sempre in collegamento c'è l'antropologo Alberto Salza, che ripeto, ha scritto questo libro Niente, come si vive quando manca tutto, antropologia della povertà estrema. E dicevo, Alberto, siccome prima l'ascoltatore Lorenzo da Milano aveva detto, al di là di tutto, a proposito del caso da Dario Berlusconi, insomma, dice un uomo che governa questo paese, che è possibile che con tutto quello che ha non abbia niente di meglio da fare, cioè che invitare 20 ragazze alla volta, diceva, insomma, un'immagine un po' triste. Allora prendo questo stralcio da Repubblica di ieri, se non sbaglio, di Curzio Maltese, questo commento che fa. A parte, lui ricorda che nel caso Lewinsky, o Lewinsky che dir si voglia, con Clinton, lei poi fu invitata dalla TV americana e parlò per 2 ore, fu invitata in varie TV straniere senza che Clinton e i suoi collaboratori mai avessero da protestare, dice Curzio Maltese. In più fu invitata anche a porta da Vespa, allora nel 99 doveva venire, poi all'ultimo lei invece dette forfait perché non era stato levato, come aveva chiesto, il titolo Sexgate, no, dallo schermo, e allora dovettero dare poi 20.000 euro, dice, quindi costò anche 20.000 euro. Però al di là di questo, conclude con questa riflessione Curzio Maltese, visto che è un po' simile a quello che diceva Lorenzo, vorrei sapere poi tu cosa ne pensi, o gli altri ascoltatori. Comunque, e scrive: al di là della politica, delle inchieste, dello stesso caso Berlusconi, è come se le parole di Patrizia D'Addario facessero cadere un sipario e mostrassero quello che c'è dietro l'Italia visibile e vista in questi decenni, dietro l'eterno spettacolo televisivo, dietro tutte le domeniche, dietro tutti i talk show, tutti i grandi fratelli di questi anni, la finta allegria, il falso successo, un mondo di solitudine, di vuoto, di infinito squallore. Non posso che essere d'accordo con Maltese, ovviamente. Vengono fuori 2 punti che si ricollegano a un discorso che sta tornando per tutta la trasmissione. La libertà. Allora, esistono 2 tipi di libertà, noi non ne facciamo mai conto. Uno è libertà di fare delle cose, questo nel privato ognuno può fare. L'altro è libertà da, essere liberi dal proprio ruolo, dalle imposizioni esterne. Allora, confondere le 2 libertà nella critica anche è pericolosissimo. Lo squallore, in realtà, pensate agli altri 6 miliardi di esseri umani che ci guardano, e questo qui è veramente scoraggiante. In tantissimi anni di Africa io non ho mai visto i miei compagni di viaggio fare i propri bisogni, perché c'è un senso del pudore altrove assolutamente eccessivo, addirittura, ma comunque rigorosissimo. L'esibizione del corpo femminile, appunto, io mi stupisco ancora che sia tollerato a questi livelli, la brutalità, altro che le bambine prostitute della Costa d'Avorio, cioè la brutalità con cui le donne vengono utilizzate costantemente, i bambini stessi, nei nostri sistemi di comunicazione generale. Tutto ciò fa sì che altrove ci guardino con estremo disprezzo, non sappiamo neanche proteggere le nostre donne, viene detto. E questa qui è una condanna morale colossale, che viene poi fuori, ritorna in questi falsi scontri di civiltà, perché se fossero civili non si scontrerebbero, tra Islam, dove il corpo della donna è considerato e protetto all'estremo, anche troppo per quanto diciamo pure schiacciato, riguarda, ecco. Sì, da noi dall'altro estremo, insomma, però comunque non se la cavano bene. L'idea di fondo, diciamo, è protettiva, per carità. Ma e poi avrei qualcosa da dire su questo. L'orrore susseguente è come, no, come si protegge un proprio oggetto, però è quello il senso, sì, non certo, il senso amorevole, certo, amoroso. È chiaramente una deformazione, come molto del nostro cattolicesimo deforme, cioè il vescovo canadese che deve dare le dimissioni perché c'è il computer pieno di pedofilia, voglio dire, non, questo non inficia il valore del cristianesimo. Detto questo, che cosa possiamo fare? In Africa si governa non col potere ma con l'autorità, e l'autorevolezza non la si compra, non la si acquisisce con i soldi, ma la si ottiene da una investitura da parte dei compagni intorno, della comunità, che la politica attuale del mondo occidentale non ha più. Il fatto stesso che noi non possiamo eleggere persone che vogliamo, ma viene comunque tutto mediato da un'organizzazione di partito, è una cosa che mi lascia assolutamente sconvolto ogni volta che devo andare a votare. Alberto, direi, perdonami, siccome chiedo scusa a Ferdinando, non mi ricordo esattamente dove chiamasse, che era lì un po' da tempo in attesa, e certo, da Monza, chiedo scusa, insomma, che è caduta la linea. Ci sono diverse altre ascoltatrici e ascoltatori, Claudio da Firenze, Francesca dalla provincia di Milano, Sara da Roma, e poi man mano gli altri. Sì, Sara. E pronto? Siamo qua. Buongiorno. Buongiorno, Sara. Allora, chiaramente faccio i complimenti per la trasmissione, che sicuramente è molto utile a tutti noi. Lo a spero. Dispetto di quello che si sente in giro, ci sono giornalisti che fanno informazione. E, io volevo esprimere la mia opinione riguardo la libertà di informazione. Per quanto mi riguarda, credo che in Italia ci sia la libertà di informazione, e questo lo dico perché tutti possono scrivere qualunque cosa e l'abbiamo visto. Quello che mi spaventa, essendo anche diciamo, avendo la possibilità di leggere anche giornali di altre nazioni, è che in Italia mi sembra che i giornalisti, alcuni, siano più interessati a scrivere, diciamo, ad assecondare alcuni politici, che invece a fornire le informazioni che servono ai cittadini per poi prendere delle decisioni al momento in cui si vota, quindi per scegliere chi li deve governare e che cosa deve fare chi li deve governare. E questo riguarda la libertà di informazione. Ora, tutto quello che abbiamo letto su Berlusconi, su queste escort, a me ha sorpreso che si continuasse a dire che non c'è libertà di informazione, perché comunque le cose le abbiamo lette. Mi è dispiaciuto non vedere nessuna reazione trasversale da parte delle nostre politiche, perché la grande sconfitta di tutta questa storia è la dignità della donna e la percezione che i nostri governanti, i nostri politici hanno della donna e della sua posizione nella società. Guarda, Sara, a questo proposito mi pare di ricordare, l'avevo visto forse qualche mese fa, se vai su internet www.ilcorpodelledonne.com, se non sbaglio, ti dà una bella rassegna, nel senso bella, mortificante, avvilente, dell'utilizzo e della rappresentazione delle donne, quindi del corpo delle donne in TV, e che diventa un messaggio forte sociale che impregna poi anche il nostro modo di vivere e di sentire. Quello può essere una, ecco, nel senso che qualcuna si è anche occupata, di questo. Grazie mille, Sara. C'è Claudio da Firenze. Pronto, Claudio? No. Sì, mi sente, buongiorno. Sì, Claudio, preferisci del tuo o del lei? È lo stesso, anche del tuo va bene. Va bene, Claudio. La radio è spenta? Sì, perché sentivo un po' di riverbero. Sì. E due considerazioni da persona semplice. La prima è che, secondo me, la libertà di stampa non esiste semplicemente perché i giornalisti sono 20 anni e si autocensurano, no? Quindi dovrebbero fare le manifestazioni contro loro stessi, perché in nome dell'editore, in nome della carriera, in nome del partito. E l'altra considerazione, voglio dire, questo è un popolo, il nostro, che non ha poi un gran bisogno di essere informato sulle verità. Cioè, siccome l'illegalità è diffusa nella società, allora meno se ne parla in maniera, quindi addirittura l'illegalità diventa una forma di mitologia da seguire, no? Tutti si vorrebbero come quello e furbescamente a potere, a donne, a soldi. E quindi voglio dire, un esempio d'approfondimento l'abbiamo avuto ed è la trasmissione dei report, no? Che ha tirato fuori, e l'ho visto alle volte, degli scandali piuttosto evidenti. Ma non è che il giorno dopo abbia fatto sì che nella società civile ci fosse una piccola discussione su quello che si era sentito. E il giornalismo tutto, anche il vostro, carino, io vi seguo perché c'è un'ottima radio, ma state sempre su quell'equilibrio, diamo un colpo al cerchio, non alla botte, abbiamo parlato 2 minuti male di Berlusconi, se parla due male di Franceschini. Claudio, allora dimmi che cosa vorresti tu, dimmi proprio sinceramente. Beh, un giornalista che non esiste in Italia è quello che dice male il proprio editore, quando c'è motivi gravi per dirne, di destra o di sinistra, che parla male il proprio partito, perché il proprio partito... Cioè la sinistra si è uccisa alle proprie mani proprio perché non ha mai avuto un senso d'autocritica, per cui è questo il male giornalismo italiano. Cioè i giornalisti si autocensurano da soli, non c'è bisogno che Berlusconi faccia nulla di più, si autocensurano perché hanno troppo interessi, per non dire la verità, proprio interessi personali che prendono il sopravvento sull'interesse della collettività, tranne eccezione naturalmente, ma questo è il male giornalismo italiano, che non c'è più nessuno che parla fuori da denti, e perché delle volte parla fuori da denti vuol dire... Cioè, sentivo quel Pietro da Santoro, no? Cioè, sono difese di corporative, di parte. E Bel Pietro ha giustificato la sua posizione dicendo che quando lui fu buttato fuori da un giornale, la federazione e la stampa non lo difese. Per cui è tutto un mondo così, no? Dove uno dice, a me è successo questo, nessuno mi ha difeso. Quindi è un giornalismo un po' zoppo, insomma, ecco. Non che manchi la libertà, le notizie si sanno, bene o male. Mancano degli approfondimenti, perché delle volte non approfondire vuol dire... Non mi metto troppo nei guai, ecco, questa è la mia opinione. Claudio, credo che in parte questa definizione di un giornalismo un po' zoppo possa essere attendibile, e sicuramente in Italia, nonostante ci sia libertà di informazione, però non è quella libertà autentica così profonda che per esempio ha, fino adesso mi sembra, il giornalismo anglosassone, diciamo, sia americano che inglese. Grazie Claudio. Siamo sempre insieme, ancora circa per un quarto d'ora, quindi se avete in mente una riflessione che volete fare in libertà sulle notizie della settimana, il numero verde è sempre quello 800 24 00 24. Io, Roberta Giordano, vi accompagno naturalmente sino alle 15, e vi ricordo che se avete voglia di essere ancora in mia compagnia domani alle 19:04 dopo il GR, sarò con Ras Degan, modello, attore, ci parlerà anche di questo film Barbarossa, di cui si è parlato molto in questi giorni, dove fa Alberto da Giussano. Parleremo anche delle sue passioni, della sua storia, della sua vita e desideri, eccetera eccetera. C'è sempre in collegamento l'antropologo Alberto Salza, e ci sono le vostre telefonate a numero verde. Tra poco c'è Francesca della provincia di Milano, c'è Elisabetta. Io vi chiedo sempre, vi prego di avere pazienza, perché adesso insomma non ci può mancare anche questo appuntamento. Colonnello Mario Giuliacci. Ciao Roberta, saluto a tutti gli ascoltatori. Senti, ma questo mal di gola, questo specie di intontimento che ho, secondo te è perché invece esistono le mezze stagioni, quindi c'è quel passaggio in cui non ci si sa bene come comportare, vestire, eccetera eccetera? Hai ragione, hai sentito anche il mio vocione, non è quello di una settimana fa. In anche tu sei influenzato? Questo è il periodo dell'anno, insieme al passaggio inverno-primavera, in cui più facilmente si prendono i raffreddori, per cui uno non sa come vestirsi, esce al mattino... Dice, ma ieri faceva caldo, ma faceva caldo nelle ore centrali del giorno, ma al mattino fa fresco, quindi al mattino non si può uscire solo con la semplice camicia, bisogna avere un golfino sopra o qualcos'altro, insomma, quindi si esce magari così spavaldi e si prende il raffreddore, perché come si dice, si dovrebbe vestire a strati, a cipolla. A cipollotto. E non lo facciamo. Ugualmente nei nostri letti ancora magari imperano il lenzuolino e la copertina leggera, ma di notte fa fresco, ragazzi, no? Non scherziamo. Può essere stato lì, effettivamente. Di notte, sì, perché sì, ho usato a dormire solo con il lenzuolo. Per cui, non vogliamo sapere particolari intimi, comunque, colonnello Giuliacci. Invece... No, vabbè, il lenzuolo non è poi un argomento così intimo. No, quindi, per sì. cui... questo fine settimana ce la capiamo bene. Prendere atto che non è più estate. Non è più estate, questo è quasi chiaro. E quindi cambiamo un po' abitudine e abbigliamento. Beh, adesso penso vorrete sapere un po' anche il tempo che farà. Direi è proprio quello che vorremmo sapere. Purtroppo i gravi eventi che hanno... la perturbazione che ha portato a gravi eventi di Messinese, voglio dire, per fortuna quella perturbazione si sta allontanando, però ancora oggi ci sarà qualche piovasco in Calabria e Sicilia, ma niente di grave. Per il resto l'Italia gode di una splendida giornata. Durerà, ma sì che durerà, dai, ci siamo impegnati per questo, poi ce me lo chiedi tu come ti posso dire di no, dai. E quindi domani sarà un'altra splendida giornata su tutta l'Italia, temperature gradevoli perché un tantino sono scese, per cui di giorno non farà quel caldo afoso anche al nord che abbiamo dovuto sopportare nei giorni passati. Ecco la raccomandazione, però al mattino farà fresco, ma normale, siamo ottobre, cosa volete, mica vorrete i 20 gradi alle 7 del mattino. No, io ne vorrei 27, ma comunque se non ci sono... Quanti ne vuoi, Roberta, mi interesserò, quanti? 27, 28, io anche 27, 35 28, sto bene. 27, 28, quindi... beh, ho capito, tu miri a valore più alto, ma se dico a qualcuno, la maggior parte non vuole più i 27, 28, ma vuole i 24, 25, quindi... Questa volta, nonostante il bene che ti voglio, devo adeguarmi alla maggioranza. Comunque, insomma, ce la caviamo bene anche questo fine settimana, via. Sì, diciamo di sì. Poi compariranno la prossima settimana delle nuvole al nord, senza particolari cose, migliorerà definitivamente al sud e sarà tutto sommato un'altra settimana positiva dal punto di vista del tempo. E meno male, almeno quello. Grazie, colonnello Giuliacci. Ciao, Roberto, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. E adesso ritornerei sulle vostre telefonate 800 24 00 24. Francesca dalla provincia di Milano, finalmente. Francesca, non ti sei addormentata nel frattempo? Dottoressa Giordano. Grazie Francesca, grazie della pazienza. Allora, buon pomeriggio a te, qual è la tua notizia? Ecco, la mia notizia, veramente sì. Ce ne sono tantissime e si accavallano, no? Per tutte le cose che sono successe. È vero, ultimamente, è difficile a volte, disastri, eccetera. Però ho fatto una piccola riflessione leggendo ieri Repubblica, no? Sì. E ho letto, dunque, qua si dice che ci sono dei distributori di gel e ostie sicure, corsa alle iniziative anticontagio. Allora, per ci l'influenza, sono gli uffici dici? Comunali che mettono dei dispenser con del gel disinfettante per quelli che lavorano lì. Sì. E per quello che riguarda la comunione, due parroci a Monza e a Milano hanno già deciso di dare l'ostia ai fedeli soltanto in mano. Però c'è un'altra cosa che mi viene in mente, che proprio l'ho letto su Repubblica ma poco tempo fa, sì. No? Che a Napoli la teca di San Gennaro veniva regolarmente baciata dai bambini, da moltissimi fedeli e anche e lì è più forte da di loro. Qualche personaggio, diciamo, amministratori locali, se non dal sindaco, adesso non ricordo bene, ma mi sembra di sì. Sì. Ecco, veniva, andavano lì e baciavano. A quel punto io mi domando, ma dove finisce la fede, dove comincia la fede, dove la prudenza, non lo so. E quando avevo visto anche la fotografia di un bambino mentre baciava la teca di San Gennaro, era in una pagina dove appunto si diceva che questa influenza stava per mietere delle vittime. Bisogna raccomandare di essere più prudenti al di là dell'affetto che si può avere per un santo come San Gennaro, la tradizione, questa è proprio imperitura. Quindi Francesca, sarei mica piemontese anche se sei della provincia di Milano, parli un po' così, mi sembra. Francesca, pronto? Sì, ma dico, ma questa è la fede che sfida anche, diciamo, la prudenza e tutto quanto. Ma a e volte fede questa o è superstizione? Non lo so, lo decideranno un po' loro, Francesca. Certo che bisogna essere prudenti. Se danno queste indicazioni, insomma, bisogna anche possibilmente attenersi. Grazie Francesca. E adesso direi anche di dare la parola a una linguista eccezionale, come sempre. Valeria Della Valle. Eccomi qua, eccomi. Valeria, io ti volevo chiedere una notizia di cui volevo parlare tra le tante cose, insomma non c'è stato tempo, poi chiederò scusa a Elisabetta che mi sa che non ce la facciamo. Elisabetta, su questo nuovo gioco della Sisal, no? 4.000 euro puoi vincere al mese per 20 anni, una specie di vitalizio. Ecco, ecco, quindi è interessante. Si usa neanche più forse questo termine, vitalizio, sì. Dunque, intanto questa parola era un po' uscita, no? I giovani la conoscevano poco. Ne faccio molto brevemente la storia. In origine vitalizio era un aggettivo e il significato era questo, che dura per tutta la vita di una persona. Naturalmente ci si riferiva a una carica, a un beneficio, a una prerogativa, insomma era normale dire una pensione vitalizia, una rendita vitalizia o un usufrutto vitalizio, quindi ecco che era sempre in un ambito un po' ereditario, legale, eccetera. Poi è diventato un sostantivo e significa un assegno o una rendita che sono corrisposti per l'intera durata di tutta la vita. Ecco che il gioco che tu nominavi ha fatto ritornare popolare, diffuso e alla moda una parola che rischiava di essere estinta, dimenticata. Quindi da questo punto di vista ben venga il vitalizio, la nuova lotteria che come premio concede un vitalizio. Quello che mi piace un po' di meno, e lo sottopongo, poi naturalmente ogni ascoltatore penserà quello che preferisce, è che questa nuova lotteria viene chiamata di volta in volta premio per la vita, oppure gratta e vinci a vita, sì, win for life, oppure stipendio a vita, vinci per la vita. Ma purtroppo, anche cercando in internet, ho visto che l'espressione più diffusa è win for life. Sì. Mi pare un po' inutile in questo caso ricorrere all'inglese, no? Mi sembra un po' una... come so, della nostra battaglia contro gli anglicismi inutili. Inutili, voglio dire, non lo facciamo per fare i bacchettoni, i parrucconi, i puristi vecchio stampo, però mi pare veramente inutile. E forse molti ascoltatori la penseranno come noi. Credo di sì, cara Valeria Della Valle. Intanto ti ringrazio. Valeria, fai un tuffo per noi, perché credo che tu sia in situazioni abbastanza piacevoli. Decisamente. E come diceva il dottor, il colonnello Giuliacci, sole e mare. Sole e mare, per chi può ancora. Grazie Valeria Della Valle. Grazie. Al prossimo sabato, Valeria. E adesso chiedo scusa a chi non è riuscito a passare con le telefonate, visto che il tempo stringe. In questo praticamente, cosa abbiamo, 62 secondi, Alberto Salza, vuoi fare una chiosa, un commento di chiusura? Che gli ascoltatori sono molto più informati di me. Nello stesso tempo... E tu sei in Africa, a volte viaggi in paesi... È proprio quello che volevo richiamare. Per esempio l'influenza non ha previsto alcunché per i paesi non sviluppati. Nessuno pensa che i medici laggiù si ammaleranno e che i morti saranno tantissimi. Allora, se allargassimo l'orizzonte al di là dell'Italia, forse avremmo una visione anche più problematica delle piccole notizie che arrivano di qua. Io in settimana non ricordo una notizia che avrei voluto commentare. Ti ringrazio molto Alberto Salza. Vi ricordo Niente ha scritto Come si vive quando manca tutto, antropologia della povertà estrema, e da Roberta Giordano Sereni, e visto diceva ampi Alberto Salza, ampi orizzonti.